later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il livello di panico è sempre altissimo, K e Drago si rendono conto che le truppe del colonnello Ungiute sono veramente arrivate. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Drago, se stai giù e stai zitto, non succede niente. Nessuno ci vedrà, nessuno ci scoprirà in quest'angolo buio. Beh, certo, noi in mezzo ai polli passiamo inosservati. Tu soprattutto. E poi non sottovalutare, Drago, il fatto che i mercenari del colonnello Ungiute sono belgi. Quindi non brillano per intelligenza. Cosa dici? Perché? Ma non le sai, le barzellette sui belgi. Barzellette sui belgi? Ma sì, non so, cose tipo... Perché i belgi sono così stupidi? Perché i loro progenitori erano patate e mayonnaise. L'hai capita? No. Beh, allora possiamo stare tranquilli. Che stronza! Il colonnello Ungiute organizza oggi un grande combattimento di polli negri appena usciti dalla camera della morte. Chi vince avrà salva la vita. Colonnello Ungiute, ingoia tutto. Vedi, Ungiute ha già preso possesso della fabbrica e ha organizzato un incontro tra due galli neri, anzi negri. Come fece Mobutu a Kinshasa nel 74, quando ha fatto combattere Mohamed Ali e George Foreman. Hai visto? Tutti uguali questi gorilla, amano la violenza esibita. Sì, però Mohamed Ali era un grand'uomo, Drago, mica un avanzo di galera come i due galli negri di Ungiute. Tagliera un po' adesso la barzelletta su patate e maionese. Drago, devi stare zitto, sei sempre lì che parli. Sì. Cappa. Vedi, poi se ne vanno. Se ne vanno. Però intanto mi sto preoccupando. Cosa succede adesso? Il pollo in sbattimento è ancora in casa di Puppo. Sì. Il John Holmes della fabbrica di polli. Non vorrei essere al suo posto. Voglio una zebra, una cavalla, una leonessa. Voglio cambiare specie, sono stufo della stessa. Voglio una mucca piena di mammelle, una capretta con le gambette snelle. Voglio una gatta, una civetta, una pecorina, una maiala e basta con la solita gallina. Ufficialmente di essere incrociato, chiedo ufficialmente di essere geneticamente modificato, voglio far l'amore con tutte le specie del creato, chiedo di essere adottato, chiedo di essere allattato, chiedo di essere insultato e chiedo di essere frustato, voglio essere un pollo in un mondo di sesso beato, voglio il mixex dei polli, polli, fortissimamente polli. Ma chi è adesso? Pronto? Pronto? Sono io, pronto? Pollo in sbattimento, qui fuori è successo un disastro. Anche qui, eh? Ma qui sono arrivate le truppe del colonnello Ungiute. E qui invece è arrivata la pizzerzotto di Pupo, ce l'ho puntata la nuca. Ma cos'è successo, Pollo? E qui mi hanno fatto il pacco, Io stavo per fare il pacco a Pupo, ma senza farlo apposta. Il pacco me l'ha fatto prima di tutti l'amministratore delegato. Ma che pacco? Di cosa parli? Le pasticche di paroxetina, non erano di paroxetina. Sembra bicarbonato. E in effetti, da quando le prendo anch'io, in effetti ho sempre digerito bene. Ma come bicarbonato? Sei sempre tuonato? Com'è sta storia, Drago? L'effetto placebo, no? Non placebo, quel gruppo di finocchi. Ma poi le sbattimento, scusa, adesso cosa c'entra il placebo? Vabbè, oggi sono qua con Pupo, questo con una mano tira sberle la sua compagna e con l'altra mi punta la pistola alla tempia, Ma cosa possiamo fare? Perché non... Drago, tu invece di star lì a dormire, cosa fai lì? Non lo so, stai sentendo tu la telefonata. Ragione, questa scena prevede solo la tua presenza. No, c'è un sistema, è il nuovo telefonino all'altoparlante, senti anche tu, quindi partecipa per favore. E invece, vabbè. È buona, Drago. E allora che cosa possiamo fare? Vieni a trovare della parrocchiatina vera. Ma vabbè, ma dove, scusa? A Dara Pup. Dove la troviamo? Che ne so io? Se lo sapessi ve lo direi, no? Ha anche ragione lui. Secondo me tu sapevi che quella paroxetina era un pacco, infatti cercavi di venderla. Infatti, ecco, quella buona te la tieni nascosta da qualche altra parte, quindi noi non ti aiutiamo. Ma quale buona? Quale pacco? E quale altra parte? Senti, mi dispiace per te, ma non ti possiamo aiutare. Qui ci sono problemi più gravi da risolvere, mi dispiace. Marcinello, Le truppe cannibali e belghe del colonnello Unghiute non sono un problema da niente, sono un problema molto grave. Mi dispiace un po' lo sbattimento. Mi dispiace. Colonnello Unghiute! Benvenuti al grande incontro tra polli negri voluti dal colonnello Unghiute. Prima di tutto cominciamo questa grande serata con un saluto al nostro indiscusso leader, il colonnello Unghiute! Drago, Unghiute Beaumayé. Unghiute Beaumayé. Nascondiamoci tra la folla. Cerchiamo una faccia amica. Sì, una faccia amica, sono tutti polli. Che devo fare? Cerca una faccia di pollo amica. Vabbè, sì, scusa. Ma mi spiace solo di aver lasciato il povero pollo in sbattimento nelle mani di Pupo. Mi spiace anche a me. Di sberle. Però dai, non potevamo fare diversamente. Forse vero. Nella cloaca massima vige la regola. Che regola? La regola. Da noi vige la regola che o è così oppure lì c'è la porta. I galli negri che si affrontano stasera lo fanno per un premio piuttosto importante. La vita. Sì, la vita. Due galli inferociti che si scanneranno per il vostro tripudio. Il colonnello Unghiute ha voluto subito questo combattimento per insegnare a tutti che questi due galli sono esattamente come voi. Sì, come voi. E che al posto loro avreste potuto esserci voi e morire voi. Ma sarà per un'altra volta. E ora si dia inizio al combattimento. Eccolo qua, è lui. È il pollo. Pronto, pollo. Aspetta, pollo, metti l'altoparlante così sentiamo tutti e due. Pollo. Cosa facciamo qui? Che ne so. Ma voi siete lì una festa? Io ho qua una pistola puntata alla nuca. Ma non siamo una festa, siamo a un combattimento tra due galli negri. Terribile. Voi siete lì a divertirvi, io qui ho le penne. Ma siete fuori? Ma noi non ci stiamo divertendo, Pollo. Stiamo cercando di capire come comportarci adesso che qui le truppe di Unghiute sono arrivate. Tu hai chiamato questi qui per le tue trame terroristiche. Sono arrivate qui in fabbrica. E ora fanno combattere galli negri. Poi non so cosa succederà. Quindi. Guarda che anche tu volevi fare la rivoluzione, Vabbè. Volevi rovesciare l'ordine costituito. Ma io ci credevo. Anche tu eri d'accordo a chiamare i mercenari di Unghiute, Adesso ti tiri dietro. Guarda, sta delirando. No, ha ragione, Drago. No, che sta delirando. No, Pupo. Pupo, ma io e te siamo amici, no? Ma ti ricordi quella volta lì? Ti ricordi quante volte, Sempre insieme. Ma come puoi pensare che io ti possa fare un pacco? Ma no, devi credermi, no? Facciamo così. Io non do niente a te e tu niente a me. Come se non fosse successo niente, no? Ci hanno fatto un pacco, l'hanno fatto a tutti e due, no? Ma cosa c'entro io? Sta cercando di far pena a Pupo. No, non è che sto cercando di far pena. Io sto dicendo la verità, Aia! Aia, ma no, Pupo, dai, non fare così. Aia. Che cosa succederà adesso? Come la aggiusterà il pollo in sbattimento con Pupo? Aia. E che cosa farà il colonnello Unghiute dopo il combattimento di galli negri? Non perdetevi danno e aspettate fino a domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo raccapricciante allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce, quasi mai. Good night, ladies and gentlemen, good night. Bye. Bella.